Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano a cura di Felice Alcame e Carlo Oliva. Buonasera, prima trasmissione del 93, speriamo che l'anno finisca bene, voglio dire, parleremo di 25 boh, una cosa del genere, dopodiché di scaramanzia e superstizione, di congedi e burocrazia e infine di riforme e schedature. Beh, mi sembra che ce n'è abbastanza, vai.